Friuli nel mondo, 123esima trasmissione dedicata agli emigrati. Augurio dal Friuli. Affidiamo al suono gaio e maestoso di queste campane il compito di porgere a nome di tutto il Friuli, a voi che siete l'orgoglio e la nobiltà di nostra gente, l'augurio più caldo ed affettuoso di buon anno. E l'augurio di bene, di pace, di serenità e di fortuna vi portino anche queste villotte e queste musiche friulane così ricche di sentimento e di calde immagini. Ascoltate la villotta In Cil e Ie Une Stele, cantata dal coro di Felete Umberto, diretto da Armando Del Fabbro. Nell'esecuzione di Galdino Turco, eccovi ora La Staiare dal mio paese di Mornello, su testo di Dino Virgigli. Dove sorelli, a me mi lusigne tal cura, io mi brimmi tutta lì che andà, poi tralala, dal mio paese ogni sere e sale, di pandiani se suris, di cibi. Sui dirà le canzonettis dal paese. cantà. Ore sorelli, a mi mi lusignetta al cuore, io ti venivi tutta lì cantà. Oi tra la la, dal mio paese lindo me ne di sede, tre scaghezza al corse, tre pulcetti sul portone, sotto le ferali impiate crociere, lì di ostere un chiaton, due scotazzi. La villotta La Lusignute viene eseguita dal coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto da Leandro Plenizio. Il complesso di Tonin Kuberli esegue l'allegro motivo dal titolo Catine di Bruno Degano. Da Gotis di Rosade, di Cesare Augusto Seghizzi, il quartetto di Cordenons canta questi tre stupendi componimenti. quei l'orale me mario te bambino te dalla signor quei l'orale me mario te bambino te dalla signor sulle pluiante cime la lieve sole di minore sulle pluiante cime la lieve sole di minore sulle pluiante cime la lieve sole di minore e queste noie l'ore di bandora l'amor volin bevi torna bevi di che vinca le tambor volin bevi torna bevi di che vinca le tambor volin bevi torna bevi di che vinca le tambor volin bevi torna bevi di che vinca le tambor roi di bevi Ed infine un ricordo a Udine e al Friuli. La canzone Nostalgie di Udin di Sandro Cimiotti è cantata da Bruno Marmai, autore del testo. Suona il complesso di Tonin Kuberli. Tre cittadine, oia adesso di un plan, e piele piscinine, la patria di Duci Furla, e la sua gioventù, e tante plan plan. Udin tu se slapiare dal nestricù, Udin tu sei regina dal tuo frio, quanche lontan o sarinvie palmo, il tuo ricuore sempre al sarà profondo, se biel ci stia la Udin, se gioventù. Come te ne strettiare in nessun luogo. O cantare così con passione, te tiare benedette lì so canzone. Mi ha detto la mia madre, se tu la ras lontano, pensa la tozza azzurra, a Udin e a Duci Furla. Tu cantarás spesso, o in coro plan plan. Thank you. esisti e la udi se doventù. Come te ne strettiare in nessun blu. O ciantare così con passione, le tiare benedette lì so canzone. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari.